Radio 24 Reportage. La dipendenza da gioco, un azzardo economico e sociale, di Valeria De Rosa. Dove vai? Papà, ormai sono maggiorenne. Non posso più fare una domanda? No, perché ormai sono maggiorenne e è la mia prima volta. A 18 anni? Ma perché tu ancora non... Adesso posso farlo legalmente. Ah, legalmente. Ma c'è anche una legge che lo vieta ai minori di 18 anni. Che non lo sai? La legge? Ma certo, certo che lo so. Però tu adesso scenderai nell'arena e vincerai la tua prima battaglia. Ciao. Ciao. Vorrei giocare. Ma li hai 18 anni? Sì. Legalmente. Legalmente. Un anno fa questo spot fece scandalo. Non era il primo, non è stato l'ultimo e non ha sollevato un polverone abbastanza alto da costringere subito lo Stato a rivedere tutta la materia. Però nel frattempo sono arrivate 7 proposte di legge. Noi abbiamo messo nel piano d'azione che la priorità è la salute pubblica, quindi anche davanti ad una questione che è trarre risorse dall'intrattenimento, quindi con i monopoli e con tutte queste cose qua che ci sono, che è legittimo perché si fa in tutto il mondo, però bisogna anche avere attenzione che nel momento in cui tu incrementi o comunque dai una forte propulsione anche pubblicitaria su queste cose qui, puoi generare in una fascia di persone una patologia. In quel momento lì la priorità diventa la salute pubblica, quindi bisogna ridurre la pressione pubblicitaria, bisogna anche che la pubblicità sia di un certo tipo, non può ingannare. Lui è Giovanni Serpelloni, professore, capo del Dipartimento per le politiche antidroga. Suona quasi strano che sia proprio una voce governativa a chiedere un cambio di passo, visto che il gioco, quello legale, è in mano ai monopoli e i monopoli sono di Stato. Il professore aggiunge anche una riflessione che a tratti sconcerta. Noi abbiamo definito e scritto nero su bianco in documenti istituzionali della Presidenza, che sono stati mandati ovunque, e che io stesso poi ho fatto delle relazioni all'interno della Commissione della Camera, della Sanità della Camera, in cui ho spiegato molto bene anche ai nostri policy maker che siamo davanti a una cosa di questo genere. Per cui dico adesso attenzione, perché siamo avvertiti tutti. Se fra qualche anno qualcuno torna allo Stato con magari una class action dicendo ma voi sapevate che dava quindi una dipendenza patologica, caro Stato, perché continuiamo con questa pubblicità se sai che puoi creare delle condizioni di malattia in certe persone vulnerabili? Parte del problema è proprio qui. Il gioco crea dipendenza, può diventare patologico, ma non tutti ne sono convinti. Le assicuro che non è scontato che è una malattia, non tutti ritengono che sia una malattia. Quindi abbiamo scritto un manuale che è in rete, l'abbiamo diffuso a tutti i servizi e i dipartimenti per le dipendenze, ma anche alle comunità terapeutiche e ai centri di ricerca, dicendo guardate che stiamo parlando di una cosa che è una vera e propria patologia sociale, così come l'ha definita anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non stiamo parlando quindi di un vizietto, non stiamo parlando di una cosa che deriva da scarsi valori morali o cose di questo genere qui. Stiamo parlando di una patologia che colpisce delle persone particolarmente vulnerabili perché sono, da un punto di vista genetico, strutturate perché se continuano a giocare sviluppano una patologia di comportamento. Come l'alcolismo, come le tossicodipendenze, molti, tanti, pensano ancora che siano problemi legati alla volontà delle persone, che non nascondano una patologia da curare. Oggi queste patologie non sono nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza al trattamento del gioco d'azzardo, quindi noi offriamo una cura con delle risorse della regione, non è che lo Stato abbia ancora, nonostante nel decreto Balduzzi ci sia scritto che alla prossima revisione dei LEA questi verranno inseriti, la revisione dei LEA non è stata ancora fatta, uno. Due, nel Balduzzi c'è anche scritto che la revisione dei LEA sarà fatta di risorse, per cui insomma noi abbiamo anche questo fatto che impegniamo risorse ma non è stato ancora sancito che i servizi debbano offrire questa cura. La dottoressa Mila Ferri è la responsabile del servizio salute mentale e dipendenze patologiche della regione Emilia-Romagna. Regione fortunata perché ha qualche soldo in più da spendere sulla ludopatia. Una malattia dal nome moderno che ha subito un'accelerazione da quando il gioco è anche e soprattutto online. Poi la crisi economica ha fatto il resto. Il tema della cura è fondamentale. Ma io ho visto l'effetto, per dire, della legge regionale che abbiamo fatto sul gioco d'azzardo, è stata quella di creare una sensibilità negli amministratori che non passa giorno che io vedo la rassegna stampa regionale non ci sia un comune che si pone il problema di come regolamentare l'apertura di queste videolotterie, come sostenere le persone che hanno problemi, come dare dei messaggi di prevenzione. Insomma, non possiamo pensare che il tema si esaurisca nella cura. La cura noi la garantiamo e cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma insomma, effettivamente siamo in una situazione un po' schizofrenica. Situazione schizofrenica, doppiamente aggiungiamo, perché oltre allo Stato che da una parte incentiva e dall'altra deve o dovrebbe curare, non esiste una linea comune. Ogni regione va avanti per la sua strada, con legge regionale e strumenti regionali. In Emilia-Romagna, regione fortunata, come dicevamo, è partito il primo progetto di comunità dedicata alla ludopatia, supportata dal servizio sanitario e animata dall'Associazione Giovanni XXIII di Reggio Emilia. Il nome Pluto è dal dio del denaro, dio della mitologia greca, del dio del denaro e non dal cane di Walt Disney. Il dio del denaro perché il denaro è sempre all'interno delle dinamiche legate al gioco d'azzardo. Noi nella nostra esperienza abbiamo visto che sono legati a filo doppio gioco d'azzardo e denaro e ricerca di una vita diversa. Pluto si trova in una località segreta, mi racconta Matteo Iori, che dell'Associazione Giovanni XXIII è il presidente. Accoglie poche persone alla volta. La terapia non è farmacologica, a meno che chi arriva, inviato dal CERT, non abbia già una terapia prescritta dal proprio medico. Le persone che arrivano a Pluto fanno un percorso individuale e uno di gruppo, un lavoro psicologico, ma anche concreto per capire come i meccanismi del gioco riescano a ingannare e trascinare a fondo, perché una volta usciti il gioco sarà ancora lì. Un paziente di questo tipo all'interno di un dipartimento delle dipendenze può costare in costi diretti dai 5 ai 7 mila euro all'anno, però c'è anche un'altra cosa. Questi pazienti hanno una perdita reddituale perché poi nella fase in cui perdono il lavoro, fanno debiti, eccetera, no? Non sono più produttivi, nel senso che non hanno più uno stipendio. Quindi la perdita reddituale minimo medio all'anno di 30.000 euro. Più ci sono tutta una serie di perdite derivanti dall'indebitamento che possono essere più variabili, che possono andare dai 30 ai 250.000 euro e oltre, dipende anche dal tipo di giocatore, di quanto è patologico, di quanto sia indebitato. Bisogna anche tenere conto di un'altra cosa, che i costi del gioco d'azzardo non vanno anche conteggiati su quanto costa il gioco d'azzardo illegale allo Stato, che anche lì è un buco nero, perché chiaramente tutto ciò che è gli investimenti che si fanno all'interno del gioco d'azzardo illegale danneggiano l'economia reale e quella legittima. Poi ci sono i costi, quelli che noi definiamo intangibili. I costi intangibili sono i costi di sofferenza procurati alle famiglie, per esempio, perché le famiglie vanno in crisi su questa cosa. I numeri variano, c'è chi parla di 800.000 giocatori patologici e oltre 1 milione a rischio. Più attendibili le cifre che parlano di 400.000 ludopatici e altri 600.000-700.000 problematici. Comunque, numeri imponenti. Non sono per una proibizione del gioco d'azzardo, non ritengo che il proibizionismo del gioco d'azzardo possa avere senso e possa esserci in Italia, anzi se dal 1576 è stato reso legale in Italia il gioco del lotto e da allora i giochi d'azzardo sono legali, dubito che potremmo arrivare a una proibizione e dubito che avrebbe senso, perché la maggior parte degli italiani giocano d'azzardo senza avere dei problemi di patologia, però c'è una percentuale di italiani che ha dei problemi di dipendenza, di patologia, che si rovina col gioco d'azzardo. Allora io non sono per una proibizione del gioco d'azzardo, sono per una limitazione importante delle pubblicità, per una limitazione di quelli che sono i messaggi che inducono le persone a ritenere che la vincita sia facile e a portata di mano, sono per dare più poteri agli enti locali, ai sindaci che possono vedere il territorio e capire dove ha senso aprire una sala da gioco e dove invece può essere pericoloso, ma sono soprattutto anche per avere degli strumenti che permettano di aiutare le persone più fragili che cadono a dipendenza. Il Dipartimento per le politiche antidroga ha formato e sta formando degli operatori, inviati poi nelle regioni. Le aziende sanitarie stanno lavorando a programmi di prevenzione anche nelle scuole, sfidando la fortuna con il calcolo delle probabilità. Resta però quella sensazione di amaro in bocca. È veramente un caso di una contraddizione incredibile, perché per le sigarette, che certo procurano molti morti, lo Stato ha, da una parte le vende, dall'altra però dà dei messaggi di dissuasione, fa le norme, no? Fa la legge Sirchia, tutto quello che sappiamo. Qui invece, ok, contrasta l'illegalità, ma la promuove comunque in proprio. Perché alla fine tutto è ancora una volta una questione di soldi. È stata proprio la questione dei fondi che ha bloccato il progetto dei LEA, nel senso che il ministro Balduzzi aveva detto che entro dicembre bisognava inserire il gioco d'azzardo all'interno dei LEA. Il problema è stato che il Ministero delle Finanze aveva sottolineato il fatto che non c'erano dei fondi specifici da dare ai servizi pubblici per questo e che quindi questa possibilità di far arrivare il gioco d'azzardo all'interno dei LEA si è bloccata in partenza. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.